Bene, questa era la canzone, un brano musicale dei Kraftwerk Radioactivity, con il quale introduciamo questo breve spazio dedicato all'incidente nucleare di Fukushima, che è avvenuto esattamente 4 anni fa, l'11 marzo del 2011, all'incirca alle 14.45 ora del Giappone. Un grande tsunami, un grande terremoto, che poi uno tsunami preceduto da un terremoto che tra l'altro fece 15.000 vittime solo per i danni causati da queste grandi onde, e soprattutto quello che è rimasto ancora oggi nel ricordo di quel giorno è sicuramente l'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, che è stato, oggi si può dire, il più grave di tutta la storia dell'energia nucleare, avendo superato anche quello di Chernobyl, forse non dal punto di vista del rilascio delle sostanze radioattive, ma sicuramente della sua gravità, perché questo incidente ha coinvolto 4 reattori nucleari, dei 6 che sono presenti sul sito di Fukushima, 3 dei quali hanno avuto danni permanenti al nocciolo, ovvero hanno avuto una fusione parziale, e probabilmente il reattore numero 1 una fusione totale del nocciolo, cosa che all'inizio non era stata neanche ammessa, si cercava come al solito di minimizzare, e il reattore numero 4, che fortunatamente era spento al momento dell'incidente, riportò comunque dei grossi danni alla struttura e soprattutto alla piscina del combustibile, che cominciava poi col tempo, insomma, dette i segni di un surriscaldamento fuori della norma. I danni sono enormi, ci vorranno decenni per ripararle, per venirne a capo, eccetera. E quello che in questi 4 anni si è fatto è stato, per dare così una sintesi della situazione, i reattori 1, 2 e 3 sono stati rivestiti all'esterno, è stato costruito intorno a questi reattori un rivestimento leggero, non un sarcofago come quello che è stato fatto a Chernobyl, questo per limitare al massimo sia la fuoriuscita di materiale radioattivo, di sostanze radioattive in aria, anche se la tenuta stagna di queste coperture non è perfetta, sia per diciamo riparare il resto delle infrastrutture, cioè impedire che la pioggia entri nuovamente, continui ad entrare nelle strutture danneggiate dei reattori. Questo perché l'acqua è il problema ancora più grave che si incontra a Fukushima, in quanto di acqua contaminata a Fukushima ce n'è una quantità enorme, e sono stati costruiti alle spalle dei 3 impianti danneggiati centinaia di serbatoi che attualmente ospitano circa 400.000 tonnellate di acqua contaminata, che viene continuamente pompata dall'interno dei noccioli, perché comunque devono essere seguitati a raffreddare per evitare incidenti, e poi immagazzinata in questi serbatoi. E questa acqua rappresenta il problema più grave, questa attualmente, per risolverlo, insomma, dal punto di vista tecnico, questo è il problema più difficile da risolvere, perché, e qui c'è probabilmente una sottostima della società che gestisce l'impianto, la TEPCO, la Tokyo Electric Power Corporation, che ha commesso parecchi sbagli, insomma, ed è più volte stata messa sotto accusa, ciò nonostante, insomma, seguita in questa sua gestione del post incidente, che non è stata voluta assegnare né a un'altra ditta né a un consorzio di ditte internazionali, è ancora affidata alla TEPCO, che però insomma commette delle grossolanità non indifferenti, le ultime dei quali sono state quelle di immaginare di impedire le fughe, le perdite di acqua contaminata che da questi serbatoi e dalle centrali continua a riversarsi nell'oceano, poi parleremo anche della contaminazione ambientale, costruendo un muro di ghiaccio intorno a questi serbatoi, praticamente infilando dei grossi elementi refrigeranti nel terreno per gelare l'acqua sottostante e costruire e mantenerla gelata costruendo un muro di ghiaccio. Si è rivelata, come del resto era immaginabile, una vera e propria follia, non ha funzionato niente. Hanno provato anche a costruire una trincea, questa volta non di ghiaccio, ma anche questo piano è fallito, e il problema principale è che sia nella zona dove è accumulata quest'acqua, dei serbatoi di accumulo, le radiazioni sono alte, e nel 2013 hanno raggiunto picchi altissimi, fino a 1800-2000 sievert il livello di radioattività misurato nel 2013, proprio per perdite impreviste che si susseguono continuamente in queste centinaia di serbatoi. E poi la contaminazione dell'oceano, appunto, che persiste, anzi si accumula, perché poi non è, per quanto grande sia l'oceano, le zone circostanti la centrale c'è un accumulo di sedimenti radioattivi nel fondo marino, insomma, quindi si entra nel pieno della catena biologica, quindi con evidenti problemi per quanto riguarda le attività di pesca dei pescatori, eccetera. Attualmente com'è lo stato della situazione? Allora, dal punto di vista della purificazione dell'acqua contaminata, come dicevo, ci sono ancora 400.000 tonnellate di acqua da decontaminare. Si pensava, questo è un altro degli annunci fantasma sbagliati che ha fatto la TEPCO, che aveva detto che entro quest'anno più o meno in primavera sarebbe riuscita a togliere tutta l'acqua contaminata, quindi a trattarla, e parte scaricandola in mare, parte portandola via, ma questa scadenza è stata rinviata per lo meno di un anno. Io credo che ce ne vorranno molti di più. E poi resta il fatto gravissimo che l'autorità comunque di sicurezza giapponese ha concesso alla TEPCO di scaricare quest'acqua contenuta nei serbatoi, una volta che è stata decontaminata, di scaricarla in mare con dei livelli di contaminazione che al momento non sono del tutto chiari. E qui si registrano da subito le proteste delle associazioni di pescatori, che chiedono viceversa altri tipi di piano, altri tipi di destinazione di quest'acqua contaminata, che dovrebbe essere ulteriormente trattata. Soprattutto qui in ballo le materie principali da eliminare sono il cesio e alcuni metalli pesanti come lo stronzio, eccetera eccetera, insomma. Ma il cesio è quello a forte attività e a forte, quindi, anche rischio di contaminazione dell'ambiente. Per quanto riguarda ancora le attività di decontaminazione, proseguono ormai da 4 anni del sito, e quindi qui si può immaginare di cosa si tratti. Da un lato c'è stata la contaminazione con la ricaduta al suolo di sostanze radioattive del terreno stesso circostante all'impianto. E dall'altra, dentro il perimetro dell'impianto ci sono una serie di residui di calcinacci, ferri, insomma, parti di apparecchiature che a seguito delle esplosioni e della distruzione dei reattori si trovano ancora ammonticchiate in questo perimetro dell'impianto, più alcune attività di demolizione che comunque sono iniziate, costituiscono, insomma, tutte queste cose, un insieme di residui, di rifiuti più che residui, radioattivi che devono essere accumulati, trasportati, il terreno deve essere decorticato, cioè va asportato lo strato superficiale, e tutte queste cose devono essere inviate a un deposito temporaneo che è in costruzione non molto distante dal sito di Fukushima. E continuamente si rilevano perdite. A febbraio, l'ultima, il mese scorso, è stata rilevata un'altra perdita da questi serbatoi, dal sito dove, di stoccaggio, dove c'è tutta quest'acqua contaminata verso il mare. E il picco di radiazioni, c'è uno studio attualmente per quanto riguarda la contaminazione del mare, fatto più di uno studio, sia degli Stati Uniti sia del Canada. Istituti oceanografici di ricerca hanno valutato e studiato la possibilità della contaminazione, che la contaminazione radioattiva arrivi fino alle coste nordamericane. Questo è stato già rilevato in forma non allarmante ma significativa, e però dagli ultimi studi risulta che proprio tra quest'anno e l'anno prossimo si attende un picco di radiazioni collocabile, stimabile tra i 3 e i 5 becquerel al metro cubo dell'acqua di mare, in virtù del trascinamento delle correnti oceaniche di queste radiazioni verso dal Giappone alle coste dell'America del Nord. E per quanto riguarda la situazione della popolazione e dei lavoratori che stanno operando sul sito di Fukushima per decontaminarlo e per cercare di impedire le varie ulteriori fughe di liquidi radioattivi, di contaminazioni, e cercando poi in prospettiva, ci vorranno circa una ventina d'anni se bastano, di rimozione del combustibile che è ancora dentro gli impianti e che viceversa deve essere rimosso perché è la sorgente principale di radiazione. Allora, la popolazione attualmente, la popolazione intorno alla centrale nucleare di Fukushima è stata praticamente tutta evacuata. Il totale degli evacuati assomma a 120.000 persone, di cui 75.000 sono state evacuate dai dintorni, dalle vicinanze, insomma, dell'impianto a qualche decina di chilometri di distanza, però ancora all'interno della prefettura. Quindi hanno trovato sistemazioni all'interno della prefettura di Fukushima, che insomma dobbiamo immaginarla come una sorta di regione, come un po' come le nostre regioni. Mentre 45.000 circa di queste persone hanno trovato una sistemazione fuori della stessa prefettura di Fukushima, verso parenti, verso o sistemazioni appositamente studiate. Anche qui a volte si tratta di campi, di roulotte, di baraccamenti in qualche modo, possiamo immaginarli, perché insomma se ne fanno vedere poche di immagini di questo tipo, ma in ogni caso ci sono. Quindi è una situazione, per quanto riguarda la popolazione, che è ancora tutta da sistemare, che non avrà sistemazione immediatamente per i prossimi 5-10 anni. Insomma, anche qui i tempi di rientro di queste persone sono medio-lunghi. Per quanto riguarda l'impiego dei lavoratori, bisogna pensare che questo cantiere è un cantiere enorme, dove si svolgono parecchie attività, soprattutto attività di difficile realizzazione, perché tutto è reso più complicato dal fatto che i lavori lì sono il materiale che si tocca, le apparecchiature, e soprattutto i componenti che si vanno, i resti di questi impianti sono contaminati, per cui tutto questo complica ulteriormente le attività. Lì ci sono circa 800 ditte che operano sul sito di Fukushima, quindi è ditte appaltatrici di vari settori di intervento, quindi c'è un via vai continuo di macchinari, di persone e così via, che tra l'altro dovrebbe, bisogna usare il condizionale, essere rigidamente controllato sia da un punto di vista sanitario sia da un punto di vista proprio, diciamo, del comportamento spicciolo, perché nel momento in cui escono questi lavoratori possono essere anche a loro insaputa veicolo di contaminazione. Quindi il fatto che ci siano sono stimati circa 7.000 lavoratori adesso che operano nel cantiere di Fukushima, e in queste condizioni estremamente difficili, immaginateli con delle tute bianche, completamente bianche o anche non bianche, insomma, completamente che coprono il volto, coprono la testa, coprono le mani con i guanti, con gli stivali, interamente coprenti, con le maschere sul viso, e quindi lavorare in queste condizioni per 8-10 ore al giorno diventa effettivamente faticoso. In più queste condizioni sono aggravate dal comportamento della TEPCO, di nuovo questa società che ha un grandissimo potere in Giappone. È la terza società elettrica del mondo, bisogna sempre ricordarlo. In Giappone è una vera e propria potenza in grado di condizionare anche i governi, insomma, la politica. La TEPCO fa un po' come gli pare, ha fatto come gli pare, incappa in numerosi incidenti anche di tipo giudiziario, ciò nonostante, insomma, non viene assolutamente perseguita se non quando arriva a condannarla la magistratura. Nel 2014 ci sono stati 40 incidenti gravi nel cantiere, 23 nel 2013. Recentemente, circa una decina di giorni fa, c'è stata una morte non dovuta a radiazioni, una morte da cantiere, come si dice, e precedentemente ce n'è stata un'altra. Quindi, insomma, 40 incidenti mortali nel 2014 e 23 nel 2013 non sono pochi, sicuramente. Che cosa ha fatto la TEPCO per la sicurezza? Più che per la sicurezza, ha fatto in modo di spremere i suoi dipendenti, abbassandogli i salari. La TEPCO ha 37.000 dipendenti, perché ha varie centrali nucleari ma anche centrali convenzionali nel paese, e ha appunto 37.000 dipendenti ai quali ha ridotto il salario da 2 anni a questa parte del 20%, con la scusa appunto che l'incidente di Fukushima gli costa un sacco di soldi, cosa che non del tutto vera, anzi quasi per niente, perché i finanziamenti da parte del governo sono enormi. Finora i lavori, i soldi spesi per la sicurezza del sito di Fukushima ammontano a 11 miliardi di dollari, pensate, quindi cifre enormi, tanto per dire quali sono i costi del nucleare, e la gran parte di questi certamente non ce li ha messi la TEPCO. Per quanto riguarda la contaminazione dei lavoratori, infine, va segnalato che nonostante le tute, gli strumenti di protezione, eccetera, eccetera, è difficile non rischiarsela, è difficile in qualche modo non prendere un livello di radiazione tale da superare i limiti. Finora i lavoratori che in questi 4 anni hanno raggiunto e superato i limiti di sicurezza, per cui non possono essere più impiegati in attività di questo tipo e quindi non più esposti a radiazioni ionizzanti, sono circa 560. Probabilmente ancora non si sa qual è lo stato di salute di questi lavoratori, bisognerà vedere nel tempo se queste dosi da loro prese produrranno degli effetti o meno. Certamente, insomma, i livelli di sicurezza sono stati per loro superati. Infine, non c'è da segnalare ancora nell'ambito delle cose gravi che accadono in quel posto, a Fukushima, l'arresto la settimana scorsa di un proprietario di una ditta che faceva lavorare ragazzi di 15 anni e gli pagava 25 euro al giorno. Questa è la paga media diciamo di un operaio, perché insomma bisogna pensare che, dice, sai, lavoro in un impianto nucleare, in questa situazione i tecnici specialisti non sono molti, non sono il grosso della forza lavoro. Il grosso della forza lavoro è costituita da manovalanza bruta, che anzi da disperati in qualche modo, perché anche così e soprattutto così vengono, sono stati reclutati i lavoratori che operano nel cantiere di Fukushima, perché è un lavoro sporco, perché è un lavoro faticoso, perché e ti danno paghe da fame, ti ricattano, insomma, paghe basse. Non è infrequente che la TEPCO ritardi i pagamenti, e che questo ritardo dei pagamenti della TEPCO poi le imprese appaltatrici lo riversino sulla manodopera che dipende da loro. Questa è appunto la situazione, questo è lo stato delle cose a 4 anni dall'incidente. È giusto ricordarlo, è giusto non dimenticare non solo l'incidente di Fukushima, ma tutti gli altri gravi, perlomeno quelli gravi che l'hanno preceduto, come Chernobyl nel 1986 e quello di Trimia Island nel 1979, è una centrale nucleare degli Stati Uniti, negli Stati Uniti. Quindi questa serie anche proprio, ce ne sono poi tantissimi altri di incidenti nucleari che avvengono più o meno, se non quotidianamente, ma con una certa frequenza, non gravi certamente come questi, ma questi tre ne hanno segnato da un lato la storia, ma anche segnato la fine, insomma, perché c'è stato soprattutto dopo Fukushima, così come dopo gli altri due incidenti, un calo deciso negli ordinativi degli impianti nucleari, nella costruzione di queste centrali, e comunque insomma c'è sempre da seguire, da vigilare da questo punto di vista sulle attività, sulle intenzioni di quella che abbiamo sempre chiamato la banda dell'atomo, la lobby nucleare, che è una lobby internazionale, anche in Italia, anche in Italia ha avuto le sue ramificazioni, insomma, perché prima o poi tenteranno sempre di riproporre questa tecnologia, facendo il possibile perché le persone, le popolazioni dimentichino questi disastri. Non possiamo dimenticarle, non possiamo dimenticare in questo momento certamente tutte le persone evacuate da Fukushima, le persone morte, le persone, anche quelle evacuate dai dintorni di Chernobyl, tutti i liquidatori che accorsero a Chernobyl per ripulire questo impianto, lavoro volontario, insomma, molti di loro morirono per le dosi altissime che presero. Tutte queste cose non vanno dimenticate, bisogna sempre avere in questo una memoria ferma, vigile e sempre presente.